Io oggi voglio condividere con voi un pensiero su un salmo, il Salmo 46, versetto 1 dice questo. Ascoltatemi bene, ascoltate quello che dice il Salmo 46, versetto 1, dice: Dio è per noi, a proposito, se non ti sei ancora accomodato, ti puoi accomodare sul tuo divano, non so, spero che non sei a letto. Se sei a letto, esci fuori dal letto, mettiti su una sedia, apri la Bibbia e aprila al Salmo 46, versetto 1, dice: Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà, sempre pronto nelle avversità. Che bellissimo verso. E il Salmo va avanti dicendo: perciò non temiamo se la terra è sconvolta, e continua descrivendo gli scenari più catastrofici e minacciosi che il mondo nel quale viviamo ci può presentare. Però lascerò a mio fratello continuare a insegnare sull'intero Salmo. Io voglio soffermarmi solo sul primo verso. Per me è sufficiente il primo verso per scoprire così tante verità ed essere riempito di così tanta sicurezza e fede. Posso ricordarti stamattina che Dio è il tuo rifugio? Il Signore, Dio, è per noi, dice il Salmo. Per noi chi? Per noi chi? Beh, questo è un canto, lo sappiamo, questo è un salmo, è un canto, una preghiera, e in questo salmo, in questa canzone, è il popolo di Dio che dice: Dio è per noi. Se tu hai fede in Dio, posso ricordarti oggi che tu vivi il più grande dei privilegi che si possa vivere, la più grande benedizione, cioè quella di avere una relazione, un filo diretto con il Dio creatore e onnipotente. E questo filo diretto e questa relazione diretta che hai con Dio ti permette di beneficiare di ogni benedizione che deriva da Dio. Dio è per noi che crediamo. Fratelli, sorelle, amici, tutti voi che avete fede, io voglio ricordarvi oggi, nella distretta nella quale ci troviamo, che abbiamo un Dio e Lui è per noi un rifugio. Se mi stai seguendo e forse non hai fede, forse ti ritrovi a vivere Dio e a vederlo distante, e a non provare alcun sentimento nei suoi confronti, anzi a sentirti distaccato da lui, io voglio invitarti ad avvicinarti. Io ti invito ad avvicinarti a Dio, perché c'è un passo nella Bibbia che dice: avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Se tu ti spogli dell'autosufficienza nella quale ti trovi, se tu ti spogli di quell'orgoglio che ti porta ad avere un pregiudizio, se tu ti liberi anche di quella convinzione che è diabolica, non porta nessun beneficio nella tua vita, quella convinzione che ti porta a credere che sei indegno, che non sei adeguato per avvicinarti a Dio, io oggi voglio dirti che la presenza di Dio è accessibile. E tu puoi beneficiare del rifugio di Dio, puoi beneficiare della protezione, del soccorso, dell'aiuto, della forza di cui leggiamo in questo verso della Bibbia. A volte sento persone che dicono: la fede non fa per me, come se la fede fosse una scelta di una cerchia di persone che riesce a credere in qualcosa che non si vede, non si tocca, e si illudono di una potenza che non esiste. Beh, io voglio dirti, se mi stai sentendo e non hai fede nel tuo cuore, beh, che la fede è accessibile, e tutti noi crediamo in qualcosa, anche tu stai credendo in qualcosa, anche tu ti stai rifugiando in qualcosa, però non c'è rifugio più sicuro per l'uomo se non il suo stesso creatore, Dio. Spogliati di quelle convinzioni, spogliati di quei pregiudizi, spogliati dell'orgoglio e datti occasione di vivere la fede. Sapete chi vive la fede? Chi per certi versi si concede il beneficio del dubbio sulle proprie convinzioni. chi si concede il beneficio del dubbio sulla propria convinzione di chi è Dio, del fatto che non esiste, che siamo soli in questo mondo, se tu ti offri il beneficio del dubbio su queste cose e ci provi, ti dai occasione di avvicinarti a Dio, io ti assicuro, amico mio, ti assicuro che Dio si presenterà, si avvicinerà a te e ti darà quel conforto che noi leggiamo in questo verso. Il titolo del mio messaggio oggi è affrontare le avversità. Io voglio darti strumenti per affrontare le avversità. Io voglio darti armi per affrontare avversità. E l'arma per eccellenza è proprio la parola di Dio. La parola di Dio è quell'arma per eccellenza che ci aiuta ad affrontare ogni tipo di attacco, ogni tipo di difficoltà, ogni tipo di avversità nella nostra vita. Non a caso la chiamo arma, perché sapete una cosa, lo voglio ricordare a tutti noi, in Efesini 6 c'è scritto che la parola di Dio è una spada. La parola di Dio è una spada. E quando tu hai una spada, tu sei difeso perché puoi attaccare il tuo stesso nemico. Il nemico viene con voci, con convinzioni, con bugie che presenta come le migliori delle verità. La parola di Dio, che è verità assoluta, ti dà la possibilità di sconfiggere quelle bugie e di affrontare ogni avversità. Io ti incoraggio ad armarti della parola, a cantarla, come abbiamo fatto poco fa, a cantare la parola di Dio, perché quello che abbiamo appena letto è un salmo, è un canto, canta la parola di Dio, ti incoraggio a farlo, memorizza la parola di Dio. Memorizza la parola di Dio, appropriati della parola di Dio come qualcosa che ti è così dentro nel cuore e nella mente che la puoi citare durante la tua giornata. Vi ricordate che Gesù, quando è stato tentato dal maligno, per ben 3 volte lui in ogni tentazione avuta ha citato a memoria la parola di Dio. Non è andato lì, non ha srotolato i rotoli, non è ricorso alle pagine della parola di Dio, l'aveva memorizzata, l'aveva nel suo cuore, l'aveva nella sua mente, ci ha lasciato un esempio da seguire, memorizza la parola di Dio, memorizza la parola di Dio, cantala, memorizzala e proclamala sulla tua vita. Lo vogliamo fare insieme, vogliamo proclamare il verso del Salmo 46,1, lo vogliamo memorizzare insieme, è molto semplice. Ripetete con me, dove ti trovi, ad alta voce, anche a costo di passare per pazzo in casa tua, magari sei l'unico che sta seguendo lo streaming, però proclama la verità di questo verso e cerchiamo di memorizzarlo insieme. Dice, Dio è per noi un rifugio. Lo stai ripetendo? Riproviamoci. Dio è per noi un rifugio, ripeti. È una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Forza, lo ripetiamo di nuovo. Dio è per noi. Fa strano non sentire le persone. Di solito sono inondato dalla risposta di una chiesa presente, però so che lo state ripetendo. Ripetilo ancora e ripetilo con convinzione. Ripetilo confessando per la tua vita e ripetilo confessandolo per la tua famiglia. Ancora una volta, Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Glorioso, vero? È un verso meraviglioso. Ci parla di avversità. In altre versioni bibliche questa avversità viene anche tradotta come difficoltà o afflizioni. E vedete, in questo tempo io ovviamente ho scelto questo verso perché ci troviamo in afflizioni, ci troviamo in difficoltà. Mai come in questa stagione viviamo in un paese, in una nazione che è interamente coinvolta in un'avversità, in un'afflizione. Tutti i cittadini italiani si ritrovano con questa sfida, una sfida che coinvolge tutti noi emotivamente. Che tu creda in Dio o non creda in Dio, che tu sia vicino a Lui o lontano da Lui, tutti noi ci sentiamo in un qualche modo afflitti dalla situazione che ci circonda. Le stime ultime parlano di 21.000 contagi e si parla di più di 1.400 morti. E questo vuol dire che ci sono decine di migliaia di persone, di nostri concittadini, che si ritrovano in lutto in questi giorni. È una situazione pesante, non lo possiamo negare. È una situazione che affligge il cuore di tutti noi. Io non so se in questa settimana ti sei ritrovato a piangere, io l'ho fatto. Davanti a certe notizie, davanti a certe testimonianze, storie, il mio cuore ha sofferto nel pensare a chi in questo momento è nella distretta. Io penso anche ai medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, tutti coloro che sono esposti, la protezione civile, chiunque sta lavorando nel sociale ed è continuamente esposto al contagio ed è lì per aiutare le persone. Il mio cuore va verso di loro ed è un cuore che è vicino a loro in preghiera e voglio invitare tutta la Chiesa a pregare per queste persone che sono in prima linea. Chi ci governa, chi guida la nostra nazione si ritrova a fare decisioni difficilissime. Siamo tutti afflitti e siamo tutti in una avversità. E queste avversità ci ricordano, ogni avversità ci ricorda l'imperfezione del mondo nel quale viviamo. È vero, no? La malattia, la guerra, le ingiustizie, la povertà, ogni tipo di afflizione, a livello globale, a livello nazionale o a livello anche individuale, ci ricorda quanto siamo vulnerabili, quanto siamo imperfetti e quanto il mondo che ci circonda è un mondo che subisce di cose che non sono buone. E sapete una cosa, nel leggere la parola di Dio, tu partendo dalla Genesi, non ti invito a cominciare dalla Genesi, se non hai mai letto la Bibbia ti invito a leggere dal Vangelo di Giovanni, ma se tu vai alle primissime pagine di questo libro, che non è un libro, è parola di Dio, noi vediamo che Dio ha prestabilito che l'uomo vivesse in un luogo di pace, in un luogo di eterna gioia. Dio ha creato l'uomo e la donna nell'Eden, in un giardino che Eden significa delizia. Dio non aveva in mente non ha pianificato la nostra creazione, il nostro essere creati da Lui in un luogo di morte, di sofferenza, di ingiustizia. Questo è subentrato dopo a causa della disubbidienza dell'uomo, ma Dio vuole, da sempre ha voluto che noi vivessimo in un luogo di pace ed è per questo che in Romani 8 noi leggiamo che anche i figli di Dio, anche noi credenti, bramiamo il momento in cui saremo liberati da questa condizione per cominciare a vivere quell'eternità alla quale Dio ci ha destinati, in un mondo perfetto, dove non c'è morte, dove non c'è sofferenza, dove non c'è malattia, dove non c'è ingiustizia. Questo è il piano di Dio che Lui vuole ristabilire, che Lui ristabilirà, ma nel frattempo, nel vivere in questo mondo, siamo afflitti. Gesù ha detto ai Suoi discepoli, e questo vale ancora per noi oggi, Lui ha detto nel mondo avrete tribolazione. Gesù lo dice. Lui è venuto per essere il nostro salvatore, il nostro liberatore, il nostro guaritore. Lui è tutto questo. Però Lui ha detto nel mondo avrete tribolazioni. E io non voglio nascondere questa verità, perché il bello della parola di Dio è che è reale, non è un romanzo che ci parla di cose irreali, non è un romanzo che ci parla di cose inesistenti, non nasconde la verità dei fatti e la Bibbia insistentemente ci mostra che questo mondo è imperfetto, è in rovina, è in ingiustizia, è nella sofferenza, è nella malattia e Gesù dice in questo mondo avrete afflizione, avrete tribolazione, però poi aggiunge ma fatevi coraggio. Fatevi coraggio, perché io ho vinto il mondo. Dio ha prestabilito un piano per noi, ed è un piano di vittoria. Se tu ti unisci a Cristo, ti unisci alla possibilità di vincere in ogni afflizione. E sebbene temporaneamente ti ritrovi ad affrontare situazioni difficili di ogni tipo, Lui è il tuo liberatore, perché ha vinto tutto questo e ha prestabilito un piano migliore che noi bramiamo vivere per l'eternità. Ora, l'afflizione è qualcosa che ci ricorda quanto siamo vulnerabili, quanto è imperfetto questo mondo. L'afflizione, l'avversità ci costringe a un riparo. Questo salmo dice con chiarezza che Dio è per noi un rifugio. Dio è per noi un rifugio. E quando sei nell'avversità, cerchi un rifugio. Chiunque è nell'avversità cerca un rifugio. E tutte le persone che ci circondano in questi tempi stanno cercando un rifugio. Nessuno ignora quanto sta accadendo, ognuno di noi cerca un rifugio e ognuno di noi ha un modo diverso di reagire a quella che è l'avversità. C'è chi reagisce nel cercare di avere controllo su tutto. No? Avete presente quelle persone? Forse sei tu quel tipo di persona che vuole avere il controllo su tutto e quindi si informa oltremodo, aumenta la propria conoscenza. In questi tempi tutti diventiamo medici e vogliamo avere il controllo. È sintomatico di un'esigenza che abbiamo. Abbiamo bisogno di un riparo e troviamo riparo nel fatto che possiamo riprenderci il controllo della nostra vita, della vita di chi ci circonda. E questa ricerca forsennata di informazione, questa ricerca forsennata di soluzioni e di giustizia non è un vero riparo. Io non voglio screditare il fatto che tu possa attingere a conoscenze, ci fa bene tutto questo, dobbiamo essere informati. Però quando questa ricerca forsennata di soluzioni invade i nostri pensieri e le nostre giornate, noi ci possiamo facilmente ritrovare in ansia, in stress e a ritrovarci con problemi di insonnia e tutto il controllo che vorremmo avere al posto di produrre soluzioni produce in noi rabbia, rancore. Rancore per l'ingiustizia, rancore per la mancata osservazione delle regole, rabbia perché vorremmo avere il controllo, rabbia nei confronti di chi guida, di chi è in autorità. E quella rabbia, quello stress, quell'agitarsi, quell'affannarsi non produce niente di buono. C'è chi poi reagisce a quelle che sono le avversità invece cercando una via facile d'uscita. C'è chi vuole evadere in tutti i modi e lo fa magari cercando di pensare ad altro. E queste sono le persone che magari si riversano in cose che possono occupare il tempo. E anche questo tipo di reazione può essere molto pericolosa, perché quando noi cerchiamo di ritrovare rifugio nell'evasione possiamo poi rifugiarci nelle cose più sbagliate. E queste sono le persone che poi magari si rifugiano nell'alcol oppure nell'occupare tempo durante la giornata con tante cose di intrattenimento che ti rubano la possibilità di vivere veramente. Il tempo ti viene rubato dal maligno perché ti ha proposto un falso rifugio e quel rifugio momentaneo e passeggero ti dà un sollievo ma che dura poco e subito devi impegnare quel tempo, subito devi evadere in ogni modo e queste sono le persone che facilmente poi possono cadere in quella che è l'apatia o addirittura la depressione. Non sanno come reagire, non hanno la forza di controllare le cose e quindi si abbandonano a loro stesso. Dio, attraverso la sua parola, ci propone di rifugiarci in Lui. Dio oggi, attraverso il Salmo 46, ti sta ricordando che c'è un rifugio migliore, che darà vero sollievo alla tua vita, che ti darà la possibilità di reagire nella maniera migliore a quanto sta accadendo attorno a te. Lui è il rifugio migliore, Lui è il rifugio per eccellenza. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle avversità. Riposa in questa verità, fai tua questa verità e rifugiati in Lui. Io voglio essere molto pratico con questo messaggio, non voglio proporti solo una buona teoria, ma io voglio che tu possa, qualsiasi sia la tua reazione all'afflizione, trovare risposta in questo verso. E se sei quella persona che ha bisogno di controllo, io voglio incoraggiarti a vivere il tuo controllo con Dio. Non devi per forza rinunciare a quello che è il tuo ricercare controllo, ricercare soluzioni, ma non farlo da solo, non farlo da sola. Questa è una caratteristica che riguarda molte donne. E questo credo perché c'è un'indole nella donna di prendersi cura della propria famiglia, di proteggere i propri figli. E quindi le donne sono più soggette a ansia, a stress, perché hanno il controllo, perché è un'indole che è sana se vissuta con Dio, ma è deleteria nel momento in cui la vivi in maniera distaccata da Dio. Vivi il controllo, ma con Dio lasciati guidare da Lui, cerca la sua sapienza, non solo le tue conoscenze, e riconosci che a un certo punto non puoi avere il controllo su tutto, non puoi avere il controllo sui tuoi figli, ma puoi ricordare a te stessa che i tuoi figli appartengono a un Padre superiore e Lui li protegge. Vivi la preghiera, vivi la resa, vivi il controllo guidato da quella potenza superiore che hai attraverso lo Spirito Santo. Se sei una persona che ha bisogno di evadere, che molto spesso magari cerca quella via d'uscita, allora la Bibbia ti propone di evadere, ma nella maniera giusta. Evadi con l'adorazione, evadi con il canto, evadi cercando la presenza dello Spirito Santo dove ti trovi. Io amo fare questo, io amo prendermi dei tempi dove metto della musica di lode adorazione con il mio cellulare, con i miei auricolari e evado, ma è un'evasione sana, perché cerco quella pace, quella tranquillità che Dio alla sua presenza mi dà. Evadi sì, ma non farlo nella direzione di cose che rubano il tuo tempo e che ti portano a riempire questi vuoti interiori con spazzatura. Non farlo, non ricorrere. Questo tempo che siamo tutti costretti a casa, abbiamo così tanto tempo a nostra disposizione, non sprecarlo davanti a serie televisive, davanti a internet in una maniera incontrollata, cercando di evadere chissà in quali altri modi e maniera sbagliata. Cerca di investire questo tempo per evadere, riposare alla sua presenza, ma nella maniera sana che porta vita. Per essere ancora più concreti, io ti invito a pregare. Come troviamo rifugio in Dio? Con la preghiera. Prenditi 20 minuti al giorno, prenditi una mezz'oretta al giorno per chiuderti nella tua stanzetta. Questo consiglio non te lo do io, è Gesù stesso che nel Sermone sul Monte invita le persone a pregare chiudendosi nella stanzetta. Sapete cosa significa questo? Che è importante che noi ci appartiamo e lasciamo fuori ogni tipo di distrazione e ci chiudiamo in un luogo nel quale stiamo soli con Dio. Posso incoraggiarti in questo tempo a vivere la preghiera nella solitudine con Dio alla sua presenza? Forse sei una mamma impegnata con un figlio, due figli, tre figli e sei occupata tutto il giorno, allora chiedi a tuo marito in questo tempo che magari non è al lavoro o a qualcuno che ti può dare una mano di impegnare i tuoi figli per 20 minuti e 20 minuti, magari ti chiudi in bagno, magari ti chiudi in una stanzetta, cerchi però la presenza di Dio in preghiera e sfoghi a Lui ogni tuo stato d'animo. I salmi non fanno altro che riproporci questo questo tipo di esempio. Presenta a Dio i tuoi stati d'animo. Di al Signore, no? Come c'è scritto in alcuni salmi, il mio cuore è afflitto, l'anima mia è afflitta in questo momento, sono preoccupata, sono in ansia, sono agitata per quello che sto vivendo, e vivi in quel momento la resa a Dio in preghiera per permettere a Lui di prendere i tuoi pesi e darti forza nell'andare avanti durante la giornata. E magari questo lo si può fare a turno, marito, moglie. Tu, ragazzo, ragazza, che hai la possibilità di appartarti con un tempo anche più prolungato, fallo. Questo è il tempo, è un'occasione straordinaria che hai. Magari non vai a scuola, non vai all'università perché sono chiuse, hai tempo per riscoprire un'intimità ancora più profonda alla presenza di Dio. Prega, prega, e ancora una volta ti voglio incoraggiare a cantare, adora. Adora, voglio essere pratico, hai la possibilità di attingere ai brani di lode e adorazioni della nostra chiesa attraverso Spotify oppure YouTube. Vai, cerca brani di lode e adorazione, cerca il CD vivo e mettiti in adorazione alla presenza di Dio, canta a Lui, perché questo è il Salmo, questo è quello che, il verso che abbiamo letto è un canto, veniva cantato, Dio è per noi un rifugio, e Lui è una forza, un aiuto sempre pronto nelle afflizioni, cantalo, e ci sono tanti bei canti che ci avvicinano a Dio, e poi in ultima analisi, cibati della parola. Cibati della parola e di ogni altro testo che può alimentare la tua fede. Io ti voglio invitare ad utilizzare YouVersion, è un'applicazione meravigliosa che credo che la maggior parte di noi ha installata nel proprio cellulare. Se ancora non l'hai fatto, vai nel tuo dispositivo dove puoi scaricare le applicazioni e cerca YouVersion o la Bibbia e scaricati quell'applicazione. Lì troverai piani di lettura giornalieri che ti possono aiutare a conoscere di più la parola di Dio e a farti forza nell'arma per eccellenza che ci è data, la spada, la parola di Dio. Prega, adora, cibati della parola, leggi libri. Questo è un tempo nel quale possiamo dedicarci alla lettura di libri di uomini di fede. Ti incoraggio a fare tutto questo. E dopo che hai fatto tutto questo, ottenuto il riparo giusto, ottenuta la forza giusta, non è bellissimo, non sono bellissimi i termini che troviamo in questo verso. Lui è per noi un riparo, Lui è una forza e poi Lui è un aiuto. Noi ci ripariamo in Lui, troviamo in Lui la forza necessaria e poi ci muoviamo in azione perché Lui è un aiuto pronto nelle nostre avversità. E l'azione alla quale voglio invitare ciascuno di voi che mi state ascoltando in questo momento è l'azione di portare beneficio, riparo, pace, consolazione alle persone che ci stanno attorno. È un tempo molto particolare per la nostra nazione, ma è un tempo straordinario per la Chiesa di Dio, per annunciare la verità che ci dà conforto in ogni afflizione. Io so che sto parlando a tante persone che hanno affrontato altre afflizioni nella propria vita e le hanno superate attraverso la preghiera, attraverso l'adorazione, attraverso la parola. Adesso è il tempo di raccontare la tua storia. Racconta agli altri come hai vinto in passato. Non so se vi ricordate quel verso che si trova in 1 Samuele 17, anche quello ho cercato di farvi memorizzare, ed è Davide che dice: il Signore che mi liberò dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso mi libererà anche dalla mano di questo filisteo. Ogni tuo combattimento passato diventa un'arma e una forza per ogni combattimento presente e futuro. Utilizza le vittorie avute in passato, le conquiste avute nelle afflizioni passate per portare beneficio nella tua casa, nella cerchia di persone di influenza attorno a te e far vincere anche loro attraverso la tua fede. In questi giorni è stato bello vedere che proprio qui, da Modugno, è partita un'iniziativa che è andata anche sulle TV nazionali e vediamo in alcuni balconi della nostra città queste lenzuola con la scritta "andrà tutto bene". Ed è una bellissima cosa, è una bellissima iniziativa, è molto incoraggiante. Però noi credenti dobbiamo riconoscere che tutto va bene nel momento in cui Dio è il nostro rifugio, Lui è la nostra forza e Lui è il nostro aiuto. Voglio farvi vedere qualche immagine di alcuni credenti che hanno partecipato a questa iniziativa. C'è questo lenzuolo in questo balcone, lo potete vedere nei vostri schermi, dove non solo c'è la scritta "andrà tutto bene", ma c'è anche la scritta "Dio è buono". E questa è bellissima, una testimonianza meravigliosa. E in più voglio farvi vedere un'altra foto, questa è Sonia, la nostra Sonia, che ha fatto questo cuore gigante con la scritta "andrà tutto bene" e in più ha aggiunto un salmo, bellissimo, ha aggiunto il salmo 29, versetto 14, che dice "spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore". Che bella testimonianza. Possiamo in questo tempo adoperare ogni mezzo per testimoniare della nostra forza, di colui che ci rende saldi e fermi nell'avversità, di colui che è rifugio e forza e aiuto per i nostri cuori. Facciamolo anche attraverso questa iniziativa. Sarebbe bello vedere molti più balconi riempiti da lenzuola che dicono "andrà tutto bene", accompagnati da un verso biblico, da un salmo, magari il salmo 46, così che possiamo comunicare qualcosa al mondo che ci circonda, alla nostra nazione. C'è speranza in questo tempo di afflizione, perché il nostro Dio è sovrano. Lui conosceva quello che avremmo vissuto in questa stagione sin da tempi passati e Lui vuole soccorrerci e aiutarci. Posso ancora una volta ripeterti questo verso? Vogliamo ripeterlo insieme ad alta voce mentre viene proiettato sullo schermo? Lo leggiamo insieme. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Alleluia. Gloria a Dio per questo verso. Che il tuo cuore sia stabile in Cristo. Vogliamo pregare e poi vogliamo stare alla presenza di Dio ancora. Chiudiamo i nostri occhi, dovunque ti trovi, unisciti a me in questa preghiera. Padre, noi confessiamo questo salmo sulla nostra vita. Noi confessiamo che Tu sei il nostro rifugio. Noi confessiamo in questo momento che Tu sei la nostra forza, che Tu sei il nostro aiuto pronto nelle difficoltà. E io voglio pregare in questo momento che Tu possa liberare chiunque vive l'affanno dell'autocontrollo, del controllare le cose, l'affanno di cercare di mantenere le cose stabili in un mondo che è instabile. Io prego in questo momento che ogni ansia, ogni preoccupazione, ogni affanno possa essere vissuto con Te, alla Tua presenza. Io sento di pregare in modo specifico per chi sta avendo difficoltà a dormire la notte, a riposare. Nel nome di Gesù io voglio pregarti in questo momento per libertà da ogni ansia, libertà da ogni apprensione, libertà da stress, nel nome di Gesù. Io prego che in queste persone la Tua parola possa avere la meglio rispetto ad ogni altra voce che stanno ascoltando, rispetto ad ogni informazione che sta arrivando. Metti pace nel cuore di chi è agitato. Io voglio pregare anche per chi sta vivendo una stagione dove evade, si ritrova a perdere tempo, perdere giornate preziose, a vivere apatia. Io nel nome di Cristo Gesù prego affinché Tu possa toccare e dare forza ai Tuoi figli di alzarsi in piedi e riscattare il tempo e vivere questo tempo di distretta, di afflizione per la nostra nazione, quale occasione opportuna per testimoniare nel Dio nel quale noi crediamo. Padre, io prego insieme a tutta la Chiesa riunita ora con me affinché tu possa portare risveglio e salvezza nella nostra nazione. Noi preghiamo che in questa nazione ci possa essere guarigione, noi preghiamo affinché questo virus si fermi, noi preghiamo affinché la contaminazione non continui ad esserci, ma in tutta questa afflizione noi vogliamo anche pregarti affinché dove le persone perdono le proprie sicurezze e il proprio controllo, che possano ritrovare la propria sicurezza in te, il controllo in te, che sei colui che rende stabile le nostre vite. Padre, per chi è preoccupato per l'economia, per chi ha perso lavoro, per chi vede una prospettiva negativa e funesta davanti a sé, io prego in questo momento che questo salmo possa diventare la verità che viene proclamata da ciascuno di noi. Io ti ringrazio, nostro rifugio, io ti ringrazio, nostra forza, io ti ringrazio, nostro aiuto. In te ci arrendiamo e a te lasciamo il controllo delle nostre vite, in questo momento, nel nome di Gesù.